Buongiorno, allora io sono Edoardo Rossetto e sono un operatore in un centro di accoglienza. La nostra squadra appunto è formata da ragazzi che sono ospiti nel nostro centro, un po' di operatori e un po' di amici, è un mix proprio perché appunto lo sport è per tutti. È il motivo per il quale siamo venuti qua a questa manifestazione, perché ci sono persone da tutta Europa, ci sono persone anche da tutto il mondo addirittura. Giusto fare conoscere anche ai ragazzi che sono nei centri di accoglienza e che non vedono tanto, che non hanno opportunità di andare tanto all'esterno e quindi di relazionarsi, è un posto dove appunto le persone sono disposte a conoscersi, e questa è una cosa che secondo me è la cosa migliore, è lo scopo di questa festa. Ecco, essendo lo sport per tutti, è bene che stiamo tutti assieme e che condividiamo un momento di sport. Quale messaggio potete lasciare per gli altri? Possiamo lasciare che partecipino ancora a una manifestazione del genere, chissà che nel futuro ce ne siano ancora, ok? E secondo me appunto questo è un modo di abbattere le barriere e integrarsi, per l'integrazione dei ragazzi e per l'integrazione anche nostra, per conoscersi tutti quanti. Grazie mille.